Capitolo 37. I due signori lasciarono Rosings la mattina dopo e il signor Collins, che era rimasto in agguato nei pressi della villa per fare l'ultimo ossequioso addio, ebbe modo di portare a casa la lieta novella che entrambi gli erano apparsi in ottima salute e in quelle condizioni di spirito che ci si poteva immaginare dopo la malinconica scena svoltasi poco prima a Rosings. A Rosings egli si era quindi affrettato a recarsi per consolare Lady Catherine e sua figlia, e con sua viva soddisfazione al ritorno aveva riportato un'ambasciata di sua signoria, la quale gli aveva significato di sentirsi così depressa da desiderar vivamente di averli tutti a pranzo con lei. Elizabeth non poté vedere Lady Catherine senza riflettere che se l'avesse voluto avrebbe ormai potuto esserle presentata come futura nipote, né poté presentare senza sorridere a quello che sarebbe stato lo sdegno di sua signoria. Che cosa le avrebbe detto? Come si sarebbe comportata? Erano domande che si divertiva a porre a se stessa. Primo loro argomento fu l'assottigliarsi della comitiva di Rosings. «Vi assicuro che ne soffro profondamente», disse Lady Catherine. «Credo che nessuno senta come me la mancanza degli amici. E poi sono particolarmente affezionata a quei giovani e so che anche loro mi sono tanto devoti. Quanto erano spiacenti di partire, come sempre del resto. Il caro colonnello riuscì a tenere alto il morale discretamente sino all'ultimo, ma Darcy sembrava soffrire acutamente, più dell'anno scorso, mi pare. Il suo amore per Rosings va certamente aumentando. A questo punto il signor Collins trovò modo di lasciar cadere un complimento e un'allusione che fecero benevolmente sorridere madre e figlia. Dopo il pranzo, Lady Catherine osservò che la signorina Bennet sembrava di cattivo umore e, trovandosi subito una giustificazione nel supporre che non fosse contenta di ritornare a casa così presto, soggiunse: «Ma se è così, deve scrivere a sua madre per chiederle il permesso di rimanere ancora un po'. La signora Collins sarà lietissima della sua compagnia, ne sono certa. Sono molto obbligata a Vostra Signoria per il cortese invito, ma non posso accettarlo. Devo essere in città sabato prossimo». «Ma allora sarà rimasta qui soltanto 6 settimane. Credevo che lei ci stesse 2 mesi. L'avevo detto alla signora Collins prima che lei arrivasse, non c'è ragione che lei parta così presto, ma la signora Bennet potrà certo fare a meno di lei per un'altra quindicina di giorni. Ma il babbo no, ne ha scritto la settimana scorsa di affrettare il mio ritorno. Oh, suo padre potrà fare a meno di lei, di sicuro, se lo può, la mamma. Le figlie non sono mai così indispensabili per il padre. E se starete qui ancora 1 mese intero, potrò poi accompagnare una di voi fino a Londra, perché io ci andrò ai primi di giugno per una settimana e visto che Dawson non ha nulla in contrario a prendere la berlina, ci sarà posto ampiamente per una di voi. Anzi, se facesse fresco, sarei persino disposta ad accompagnarvi tutte e due, dato che non siete grasse né l'una né l'altra. La sua cortesia è squisita, signora, ma temo che dovremo attenerci al nostro primitivo progetto. Lady Catherine parve rassegnarsi. Signora Collins, deve mandare con loro un servitore. Lei sa che dico sempre quello che penso e non posso sopportare l'idea di due signorine che viaggino da sole in diligenza. È cosa estremamente sconveniente. Deve proprio fare in modo di mandare qualcuno. Io ho una vera avversione per questo genere di cose. Bisognerebbe che le signorine fossero sempre opportunamente sorvegliate e accompagnate secondo la loro posizione sociale. Quando mia nipote Georgiana andò a Ramsgate l'estate scorsa, posi come condizione che fosse accompagnata da 2 domestici, la signorina Darcy, la figlia del signor Darcy di Pemberley e di Lady Anne. Non sarebbe sembrata al suo posto in altra maniera? Io sono rigorosissima in materia, deve mandare Jane con le signorine, signora Collins. Sono contenta di essermi ricordata di farne cenno perché sarebbe davvero un gran discredito per lei se dovessero andare da sole. Mio zio ci manderà incontro un domestico. Ah, suo zio! Tiene un domestico dunque. Sono felice che abbia qualcuno che pensa a queste cose. Dove cambierete i cavalli? Ah, già, a Bromley, naturalmente. Se farà il mio nome al campana, si prenderanno cura di lei. Lady Catherine aveva molte altre domande da fare circa il loro viaggio e poiché non a tutte era in grado di rispondere da sola, occorreva fare attenzione, cosa che Elizabeth ritenne una fortuna per lei, se no, con l'animo così gonfio, si sarebbe persino scordata di dove si trovava. La riflessione doveva essere riservata per le ore di solitudine, ogni qualvolta si trovava sola, vi si abbandonava con grandissimo sollievo. Non passò un giorno senza che facesse una passeggiata solitaria nella quale poter indugiare la dolcezza di penosi ricordi. La lettera del signor Darcy l'aveva quasi imparata a memoria. Ne studiava ogni frase, i suoi sentimenti verso lo scrivente variavano grandemente di volta in volta. Quando rievocava il modo in cui egli le si era dichiarato, si sentiva ancora tutta pervasa dallo sdegno. Ma quando si indugiava a considerare con quanta ingiustizia ella lo aveva rimproverato e condannato, non era adirata che con se stessa. E la delusione che le aveva inflitta diveniva oggetto di compassione. Il sentimento di lui le destava gratitudine, il suo carattere in generale le ispirava rispetto, ma non poteva provarlo, né si sarebbe sentita neppure per un momento di rimpiangere il suo rifiuto o di provare la minima voglia di rivederlo. Trovava fonte costante di irritazione e di rammarico nel suo comportamento passato e argomenti di ancor più violento corruccio nei disgraziati difetti della sua famiglia. Per essi non c'era speranza di rimedio. Il babbo, lieto di poter ridere di loro, non avrebbe mai compiuto lo sforzo necessario per domare quelle stordite pazzerelle delle sue figlie minori. E la mamma, con quel suo fare così scriteriato, rimaneva affatto insensibile al male. Elizabeth si era sovente unita a Jane nel tentativo di tenere a freno la sorditezza di Catherine e Lydia, ma finché erano spalleggiate dall'indulgenza della madre, che speranza di miglioramento poteva sussistere. Catherine, di animo debole, irascibile, completamente soggiogata da Lydia, si era sempre risentita dei loro consigli e Lydia, caparbia e negligente, non dava loro nemmeno retta. Erano tutte e due ignoranti, pigre e vanitose. Finché fosse rimasto a Meryton un solo ufficiale, avrebbero continuato a fare le civette con lui e finché Meryton fosse rimasta raggiungibile da Longbourn con una passeggiata, avrebbero continuato a recarvisi. Un altro cruccio non lieve era rappresentato da Jane e la spiegazione del signor Darcy, mentre l'aveva indotta a restituire a Bingley tutta la buona opinione di un tempo, aveva acuito in lei la sensazione di ciò che Jane aveva perduto. Risultava provato che l'affetto di lui era stato sincero e la sua condotta irreprensibile, a meno che non gli si volesse rimproverare l'eccesso di fiducia dell'amico. E com'era doloroso allora il pensiero che di una situazione così desiderabile sotto ogni aspetto, così ricolma ad ogni vantaggio, così promettente per la sua felicità, Jane fosse stata privata dalla mancanza di criterio e di decoro della famiglia. Quanto a queste riflessioni, si aggiungeva il quadro dell'indole di Wickham. Si può facilmente comprendere come quell'animo che prima aveva raramente conosciuto l'abbattimento si sentisse ora così angustiato da renderle quasi impossibile di mantenere un aspetto passabilmente gaio. Durante l'ultima settimana del suo soggiorno, i loro impegni a Rosings tornarono ad essere frequenti come lo erano stati da principio. Vi passarono perfino l'ultima sera e di nuovo Sua Signoria si informò minuziosamente dei particolari del loro viaggio, impartì loro direttive sul miglior sistema di fare i bagagli ed insistette a tal punto sulla necessità di ripiegare i vestiti nell'unico modo giusto che Mary, di ritorno a casa, si sentì obbligata a disfare tutto il lavoro della mattina e a rifare il suo baule di sana pianta. Quando si accomiatarono, Lady Catherine con gran degnazione augurò loro buon viaggio e le invitò a tornare di nuovo a Hainsford l'anno seguente e la signorina Dubourg fece persino lo sforzo di far la reverenza e stringere la mano a entrambe. Capitolo 38. La mattina del sabato Elizabeth e il signor Collins si incontrarono per la colazione qualche minuto prima che comparissero gli altri ed egli approfittò dell'occasione per fare i convenevoli d'addio che giudicava assolutamente indispensabili. Non so, signorina Elizabeth, se la signora Collins le abbia già espresso la sua riconoscenza per la bontà che ella ha dimostrato nel venire da noi, ma sono sicurissimo che non lascerà questa casa senza aver ricevuto i suoi ringraziamenti. E posso assicurare che il favore della sua compagnia è stato grandemente apprezzato. Sappiamo quanto poco ci sia che possa tentare qualcuno alla nostra modesta dimora, il nostro semplice tenore di vita, le nostre piccole stanze, i pochi domestici e la poca gente che frequentiamo devono far sembrare Hainsford un posto estremamente monotono a una signorina come lei. E però spero che vorrà credere alla nostra gratitudine per la sua degnazione. Noi abbiamo fatto tutto quel che era in nostro potere per evitare che il suo tempo passasse in modo sgradevole. Elizabeth lo ringraziò calorosamente, rassicurandolo sulla propria felicità. Aveva passato 6 settimane di vera letizia e il piacere di stare con Charlotte, oltre alle cortesi premure cui era stata fatta segno, doveva far sì che la riconoscente si sentisse lei. Il signor Collins fu lusingato e con più sorridente solennità rispose: «Mi rallegra assai il sentire che il tempo le è passato in modo non del tutto spiacevole. Noi abbiamo fatto certamente del nostro meglio e poiché fortunatamente era in nostra facoltà di presentarla in un'elettissima società e grazie ai nostri rapporti con Rosings ci era fornito di frequente il mezzo di variare il modesto scenario di casa nostra, ritengo di potermi lusingare che la sua visita a Hainsworth non sia stata del tutto tediosa. Infatti, i nostri rapporti nei confronti della famiglia di Lady Catherine rappresentano una specie di particolare privilegio, una benedizione di cui pochi possono menar vanto. Lei vede su che piede siamo. Lei vede come sia invitati di continuo da loro. Per la verità, devo riconoscere che con tutti gli svantaggi dei costumi dell'elettorato non considererei mai oggetto di compassione chi vi si risieda, fin tanto che sia chiamato a dividere con noi l'intimità della casa di Rosings. Le parole non bastavano ad esprimere la piena dei suoi sentimenti ed egli era costretto a passeggiare su e giù per la stanza mentre Elizabeth cercava di sposare cortesia e sincerità in poche brevi frasi. Insomma, cara cugina, lei potrà recare nello Herefordshire ragguagli assai favorevoli sul nostro conto. Almeno mi lusingo di pensare che così sarà. Lei è stata testimone quotidiana delle grandi premure di Lady Catherine per la signora Collins. Nel complesso confido che non sembri che la sua amica abbia giocato una cattiva. Ma sarà meglio tacere su questo argomento. Permetta soltanto che le assicuri, cara signorina Elizabeth, che io posso di tutto cuore sinceramente augurarle pari felicità nel matrimonio. La mia diletta Charlotte ed io abbiamo un unico modo di sentire e di pensare. Su ogni punto c'è fra noi una notevolissima somiglianza di carattere e di pensiero. Sembrava che fossimo destinati l'uno per l'altra. Con tutta tranquillità, Elizabeth poté rispondere di essere felicissima che così fosse e con pari sincerità poté aggiungere di credere fermamente alle sue gioie domestiche e di rallegrarsene. Non seppe dolersi tuttavia che l'elencazione di queste venisse interrotta dall'ingresso della signora dalla quale esse erano originate. Povera Charlotte! Era ben triste lasciarla in simile compagnia, ma l'aveva scelta lei ad occhi aperti e sebbene evidentemente le rincrescesse che le sue ospiti stessero per partire, non sembrava implorar compassione. La casa e le faccende, la parrocchia e il pollame con tutti gli interessi che ne derivavano, non avevano ancora perduto le loro attrattive. Quando finalmente giunse la carrozza, vi furono legati sopra i bauli, vi si collocarono dentro i pacchi e tutto fu pronto. Dopo aver detto affettuosamente addio all'amica, Elizabeth fu accompagnata alla carrozza dal signor Collins, il quale nell'attraversare il giardino la incaricò dei suoi migliori ossequi a tutta la di lei famiglia, senza dimenticare i ringraziamenti per tutte le cortesie che aveva ricevuto a Longbourn durante l'inverno e i suoi magi signori Gardiner, benché non li conoscesse di persona. L'aiutò quindi a salire. Mary le tenne dietro, lo sportello stava per chiudersi, allorché, non poco turbato, egli ricordò loro di improvviso che si erano scordati fino a quel momento di lasciare una qualche ambasciata per le signore di Rosings. Ma, soggiunse, desidererete senza dubbio che si presentino loro i vostri umili omaggi e l'espressione della vostra riconoscenza per la benevolenza dimostratavi durante il vostro soggiorno. Elizabeth non trovò nulla da obiettare, soltanto allora si poté chiudere la porta e la vettura si mosse. Mio Dio! Esclamò Mary dopo un breve silenzio. Sembra che siano passati un giorno o due da quando siamo arrivate, eppure quante cose sono accadute! Moltissime, davvero! Fece la sua compagna con un sospiro. Siamo state 9 volte a pranzo da Rosings, senza contare le 2 volte che ci siamo andate a prendere il tè. Quante cose avrò da raccontare! E quante ne avrò io da nascondere? Aggiunse per sé Elizabeth. Il viaggio si compì senza gran conversazione e senza alcun incidente, e avevano lasciato Hainsford da 4 ore quando raggiunsero la casa del signor Gardiner, dove dovevano trattenersi qualche giorno. Jane aveva buon aspetto ed Elizabeth ebbe scarsa occasione di studiare lo stato d'animo della sorella, in mezzo ai vari impegni che la bontà della zia aveva creato per loro. Mi era stabilito che Jane sarebbe rientrata a casa con lei e a Longbourn ci sarebbe stato agio di osservarla. Intanto non fu senza sforzo che si impose di essere giunta almeno a Longbourn prima di poter confidare alla sorella le profferte del signor Darcy. aver da rivelare qualche cosa che avrebbe così straordinariamente meravigliato Jane e nello stesso tempo estremamente lusingato quel tanto della propria vanità che non le era ancora riuscito di domare con la ragione, costituiva una tale tentazione alla confidenza che nulla avrebbe potuto vincere se non lo stato di incertezza in cui si trovava su ciò che avrebbe dovuto dire e non dire, e il timore, una volta entrati in argomento, di venir sollecitata a ripetere qualche cosa sul conto di Bingley che avrebbe potuto accrescere la pena della sorella. Capitolo 39. Era la seconda settimana di maggio quando le tre signorine partirono insieme da Gracechurch Street per la città di nello Herefordshire. E mentre si avvicinavano alla locanda in cui era convenuto che la carrozza del signor Bennet si trovasse ad aspettarle, corsero subito a testimonianza della puntualità del vetturino, Catherine e Lydia che guardavano fuori da una sala del piano superiore. Le due ragazze erano lì da oltre un'ora, felicemente occupate a sbirciare nel negozio di una modista di fronte, a guardare la sentinella di guardia e a condire un'insalata di cetrioli. Dopo aver dato il benvenuto alle sorelle, mostrarono trionfanti una tavola carica di tutti quei cibi freddi, solitamente ammaniti dalla dispensa di una trattoria di campagna, esclamando: «Carino, eh? Non vi pare una bella sorpresa?» «E abbiamo deciso di invitarvi tutte e tre», soggiunse Lydia. «Soltanto dovete prestarci voi i denari, perché abbiamo appena finito di spendere i nostri in quel negozio là». Poi, mostrando i loro acquisti: «Guardate un po', ho comperato questo cappellino, non che mi sembri molto grazioso, ma ho pensato che tanto valeva che lo comperassi. Lo disferò tutto appena torno a casa per cercare di rifarlo un po' meglio». E quando le sue sorelle le ebbero detto, in tutti i toni che era brutto, soggiunse con assoluta indifferenza: «Oh, ma ve ne erano due o tre molto più brutti in quel negozio, e quando avrò comperato un nastro di un colore più grazioso per ornarlo tutto di nuovo, direi che diventerà sopportabilissimo. E del resto, poco importa quel che si porterà quest'estate dopo che il reggimento del Shire sarà partito da Meryton. Fra una quindicina di giorni se ne vanno». «Davvero?» esclamò Elizabeth con la massima soddisfazione. «Ora si accamperanno vicino a Brighton e ho tanto desiderio che papà ci accompagni tutte là per l'estate. Sarebbe un progetto meraviglioso e credo che non verrebbe a costare quasi nulla. E poi la mamma sarebbe così felice di andarci. Se no, pensate che estate desolata dovremmo passare». «Già», pensò Elizabeth, «un progetto meraviglioso davvero. Proprio quel che ci vorrebbe per noi, santo cielo. Brighton è un accampamento intero di soldati per noi, mentre per sconvolgerci è bastato un solo modesto reggimento di milizia e i balli mensili di Meryton». «E adesso», dichiarò Lydia mentre si sedevano al tavolo, «belle notizie per voi. Indovinate un po'. Ottime notizie, sensazionali notizie, e riguardano una certa persona che piace a tutte noi». Jane ed Elizabeth si scambiarono un'occhiata e dissero al domestico che poteva andare. Lydia si mise a ridere e proseguì: «Si capisce, questo fa onore al vostro amore della forma e della discrezione. Avete pensato che il cameriere non doveva ascoltare come se a lui gliene importasse? Credo che gli capiti sovente di sentir cose peggiori di quelle che io sto per raccontare. Ma è tanto brutto. Sono contenta che se ne sia andato. In vita mia non ho mai veduto un mento aguzzo come quello. Bah, ma ora torniamo alle mie notizie. Riguardano il caro Wickham. Troppo lusso per il cameriere, non è vero? Non c'è pericolo che Wickham sposi Mary King. Ecco qui. È andata a stare con un suo zio di Liverpool. A stare per sempre. Wickham è salvo». «E Mary King è salva anche lei», soggiunse Elizabeth. «Salva da un matrimonio sconsigliabile dal punto di vista finanziario». «È una bella grulla essersene andata, se le piaceva. Ma spero che non ci fosse un serio attaccamento né da una parte né dall'altra», disse Jane. «Sono sicura che da parte di lui non c'è, lo garantisco io. Non gliene è mai importato un soldo di lei. Che volete che faccia caso a quello scarabocchino lentigginoso?» Elizabeth fu impressionata di pensare che, quantunque incapace per se stessa di tanta volgarità d'espressione, la volgarità del sentimento era poco diversa da quella che le era albergata in petto e che aveva ritenuta equa. Appena tutte ebbero mangiato e quando le maggiori ebbero pagato, fu ordinata la carrozza. Dopo qualche sforzo, l'intera brigata con tutte le valigie, le borse da lavoro, i pacchetti e la malaugurata giunta degli acquisti di Catherine e Lydia vi prese posto. «Come si sta bene così pigiate?» esclamò Lydia. Sono contenta di aver comperato il mio cappellino, non fosse altro che per lo spasso di avere un'altra scatola di cartone. Benissimo. Ora che siamo ben comode e stipate, vogliamo chiacchierare e ridere per tutta la durata del viaggio. E prima di tutto, sentiamo un po' che cos'è capitato a ciascuna di voi da quando siete partite. Avete conosciuto dei giovanotti simpatici? Avete avuto modo di civettare un po'? Avete sperato molto che qualcuna di voi trovasse marito prima di tornare a casa? Jane sarà presto una zitellona, ve lo dico io. Ha quasi 23 anni, Dio, che vergogna avrei se non fossi sposata prima dei 23 anni. La zia Phillips ci tiene tanto che troviate marito, non ve ne fate un'idea. Dice che Lizzie avrebbe fatto bene a sposare il signor Collins, ma a me pare che non ci sarebbe stato nessun sugo. Dio mio, come mi piacerebbe maritarmi prima di voi. Allora vi farei da chaperona a tutte le feste di ballo, care mie. Come ci siamo divertite l'altro giorno in casa del colonnello Forster. Kitty e io si doveva passare la giornata e la signora Forster aveva promesso che la sera si sarebbero fatti quattro salti. A proposito, la signora Forster e io siamo amicone. Così invitò le due Harrington, ma Harriet era ammalata e Pen ha dovuto venirsene da sola. E allora? Indovinate un po' che cosa abbiamo fatto? Abbiamo vestito Chamberlain da donna per farlo passare per una signora. Pensate un po' che ridere. Nessuno ne sapeva niente, salvo il colonnello e la signora Forster. E Kitty e io, e tranne la zia, perché abbiamo dovuto farci prestare un vestito da lei, non vi immaginate neppure come stava bene. Quando entrarono Danny e Wickham e Pratt e altri due o tre giovanotti, non lo riconobbero neppure per sbaglio. Signori Dio, che risate ho fatto! E la signora Forster pure, credevo di morire. È stato per questo che i signori hanno sospettato qualcosa e poi hanno fatto presto a scoprire di che si trattava. Con questo genere di cronache delle loro feste, delle loro burle e sostenuto dai suggerimenti delle aggiunte di Catherine, Lydia cercò di divertire le sue compagne per tutto il tragitto fino a Longbourn. Elizabeth ascoltò il meno possibile, ma non ebbe modo di non accorgersi con quanta frequenza fosse fatto il nome di Wickham. A casa ebbero affettuosissima accoglienza. La signora Bennet si rallegrò di vedere che Jane non era meno bella di prima e più di una volta durante il pranzo il signor Bennet ebbe a dire spontaneamente a Elizabeth: «Sono contento che tu sia tornata, Lizzie!» Nella sala da pranzo la comitiva era numerosa perché quasi tutti i Lucas erano venuti incontro a Mary a sentire le notizie. Gli argomenti di conversazione furono svariati. Lady Lucas, attraversando la tavola, si informò da Mary del benessere del pollame della figliola maggiore. La signora Bennet era doppiamente impegnata a raccogliere da una parte un resoconto sull'ultima moda che le forniva Jane, seduta a una certa distanza da lei, e dall'altra a passarlo di seconda mano alle figliole Lucas più giovani. Lydia, poi, con voce alquanto più elevata di ogni altra, stava enumerando le diverse delizie della mattinata a chiunque volesse darle retta. Oh, Mary, disse, che peccato che tu non sia venuta con noi. Ci siamo tanto divertite. Nell'andare, Catherine e io abbiamo tirato su tutte le tendine per far finta che non ci fosse nessuno dentro la carrozza. E io avrei fatto così tutta la strada se Kitty non si fosse sentita male. Una volta arrivate alla locanda George, credo proprio che ci siamo comportate alla perfezione perché abbiamo invitato le altre tre al più prelibato pranzo freddo di questo mondo. E se fossi venuta tu avremmo invitato anche te. E poi al ritorno, che risate! Credevo che non saremmo mai riuscite a entrare nella carrozza. Stavo proprio per morire dal ridere. E poi siamo state così allegre per tutto il tragitto. Abbiamo chiacchierato e riso così forte che ci avrebbero potuto sentire a 10 miglia di distanza. Al che Mary molto gravemente rispose: Lungi da me, cara sorella, il disprezzar simili svaghi. Senza dubbio sono essi congeniali alla maggioranza delle menti femminili. Confesso però che essi non presenterebbero attrattive per me. Preferirei di gran lunga un libro. Ma Lydia non ascoltò una parola di questa risposta. Era raro che desse retta a chiunque per più di mezzo minuto e a Mary poi non badava affatto, mai. Nel pomeriggio Lydia insisté con le altre ragazze per fare una passeggiata fino a Meryton a vedere come stavano tutti, ma Elizabeth si oppose fermamente al progetto. Non si doveva dire che le signorine Bennet non potessero stare a casa mezza giornata senza andare alla ricerca degli ufficiali. V'era poi un altro motivo alla sua opposizione. Paventava di ritrovarsi con Wickham ed era decisa a evitarlo fin tanto che fosse possibile. A lei l'imminente trasferimento del reggimento dava un conforto che andava davvero oltre ogni limite. Se ne sarebbero andati entro una quindicina di giorni e una volta partiti, ella sperava che non si potesse più essere nulla a tormentarla per causa di lui. Non erano trascorse ancora molte ore dal suo ritorno a casa quando si accorse che il progetto di Brighton, di cui Lydia aveva loro accennato alla locanda, formava oggetto di frequente discussione fra i suoi genitori. Elizabeth comprese subito che suo padre non aveva la minima intenzione di cedere, ma le sue risposte erano al tempo stesso così vaghe ed equivoche che la mamma, benché spesso scoraggiata, non aveva ancora cessato di sperare di riuscire ad averla vinta.